fare, lasciamo che si prendano i meriti dai progetti degli altri. Meriti non ne hanno assolutamente, i meriti ce li ha chi l'ha fatto il progetto, non certamente chi ha copiato, e io sono uno di quelli che ho copiato, e lo dico chiaramente a tutti e a chiunque, l'ho sempre detto e continuerò a dirlo. Avanti Riccardino. Ok, vado avanti io, sì, anche io se ci sono da poco ho capito che, come state dicendo, che sono tutte parole, ognuno dice la sua, dappertutto, bisogna stare ai fatti. Direi proprio di sì, tu per quello di capire ascolta bene le parole e poi alla fine man mano che cresci te ne farai un concetto e saprai sicuramente valutare con la tua mente, non con la mente di certe persone magari che hanno la presunzione di vantarsi. Avanti Luca. Vabbè, ognuno lo sa costruisce come può, io non sono capace di farlo, poi chi è capace se la costruisca. Va bene, non ci stanno problemi. No, infatti non è un problema, però sto dicendo quello che è in realtà, tutto lì. Vai Massimiliano. Vabbè, vai, non sono frutti. Ognuno fa, disfa come vuole, a me manco, non mi interessa niente. Comunque, è una soddisfazione quando uno se la fa che poi fa anche bene, funge bene. No, secondo me l'unica cosa che, io giuro, dovresti fare, secondo me, ma forse quando la buttata così a metro la terra, conviene, visto che c'è il palo, la metti sul palo, almeno quello. Ma lo farò sicuramente, Massimiliano, solo che non ho avuto la possibilità in questo periodo, che sono 2 mesi o meglio 3 mesi senza uscire da casa, che esco solo per motivi molto ma molto validi e basta, tipo ad esempio, tanto per citarne uno di questi motivi, quando vado a prendere la pensione, se no col fatto del coronavirus l'antenna sarebbe stata più in alto e sarebbe stata anche al suo posto, quello originale, invece non ho potuto fare, purtroppo si è verificato quel che si è verificato a livello di contagi e dunque con la mia età ti dico che è molto rischioso uscire, per cui me ne rimango in quarantena fin quando non sarà possibile. Tutto lì, cosa vuoi che dica Massimiliano? Il discorso è quello. Vabbè, ma per tirare su l'antenna su un palo non è che devi uscire, no? Non ce l'hai lì a casa tua il palo. No, che ne ho uno che è bloccato, uno dentro l'altro, che è bloccato che non riesco a sfidarlo, nemmeno mettendoci il CRC per sbloccarlo. È un palo a cano chiare, sì è vero, però c'è uno di questi pali incastrato, non riesco a toglierlo. A quel punto lì cosa faccio? Mi compro un pezzo di palo nuovo oppure me lo compro addirittura lì da Bricomen, uno di quelli da 6 metri e lo utilizzo, lo cambio totalmente, così almeno magari ci piazzo anche l'altra antenna e così ne ho due, una nel terrazzo e una all'altra parte della casa. Allora, buonasera. Buongiorno. Va bene dai signori, è l'ora di pranzo e io mi allontano dalla radio, poi i collegamenti già me li ho fatti, là. Però nel canale di sopra c'è 1 e 2 stazionari, cazzo prima non si muoveva l'ago, adesso ne ho 1 e 2, boh, che bari strano a questo. Va bene, dai, va bene, io vi saluto, vi auguro buon pranzo a tutti e magari ci sentiamo dopo pranzo, ok? Buon pranzo a tutti, ciao! Ciao Massimiliano, buon pranzo anche a te. Ciao Massimino Bulldozer, un abbraccio, ci sentiamo stasera, dai, KK. Ho agganciato, te l'ho detto, il B300 con la minima potenza e c'ha molto di più, Aspetta, se avete parlato in due, Claudio, tu e Giulio, dimmi, Cla. Ho detto che ho agganciato il B300 con la minima potenza, c'ha molti più picchi di modulazione rispetto a quell'altra radio mia. Ah, così è? Sì, spinge molto, molto di più. Caspita, in terza marcia mi dà quanto il vintage praticamente mi dà la metà della potenza. Aspetta, io non ti sto seguendo qua, gli ha agganciato il B300 a marcia bassa, così mi ha detto. Gli ho agganciato il B300 al Cobra con la potenza minima, in terza marcia mi dà gli stessi watt che mi dà in quinta marcia con il Vintage. E quanto mi dai in terza marcia? Guarda, di portante bianca ne dà 80, modulate ne dà 120. E in quinta marcia? In quinta marcia modulate ne dà 220. Già l'ho fatto notare allora. Lo spinge molto, perché c'è un bel di potenza questa radio e un bel di picchi di modulazione, capito, Massimiliano? Buona, buona. C'è una bella radio, c'è. Bella radio, va bene, lascia stare così. Bella, bella, bella. Poi gli altri non so cosa ti dicono, ma per me è bella. Lasciamo così, Massimiliano, dai. Questa è stata un affare, te l'ho detto stamattina. E l'ho presa al volo perché è veramente una radio eccezionale. Cazzo, bastante in più, sto vendendo i baracchini modificati, chissà, quel baracchino modificato è un sintonia continua praticamente, segna tutto al frequenzimetro, se sono sul canale 80 mi dà la frequenza 27805 e in più mi dà anche il canale 80, figurati tu. Raga, entro al volo, scusatemi, entro al volo per salutarvi, dai, ci sentiamo un altro momento, vado a caricare, ok, un salutone a tutti, dai, ciao ciao. Ciao Rubrofè, ci ascoltiamo, un abbraccio e buon pranzo, Gap. Buona, buona, buona, va bene, ok, sono contento. Dai, a dopo ce ne coincide, dai. Ciao a tutti, dai. Ciao Massimiliano, e anche io adesso stacco, dai, e poi ci sentiamo stasera, magari se c'è un altro po' di propagazione. Un abbraccio a tutti, un saluto a tutti, grazie delle due chiacchiere, io vado a mangiare, ciao ciao. Ok, ciao qua, un pranzo anche a te, alle prossime, ciao, ciao a tutti, ciao Massimiliano, ciao Gianni, ciao a tutti, Luca, Riccardino, eccetera, eccetera, dai, saluto a tutti anche per me come ti causa pranzo, ciao. Grazie, bussa, volante mio hermano, volante. Ciao. Attenzione, canale 10, ascoltate tutti l'un che chiama, Gabbio. Ancora in macchina, sì, già. Ah, sono a casa. Ho portato la spesa e poi sono tornato a casa, mi sono trovato con Marco. Una cazza. Ho preso un caffè insieme e poi me ne sono ritornato. Ma come funziona l'affare del caffè? Già. Io mi sono seduto al tavolino con Marco, ce l'abbiamo preso tranquillamente. Dovrebbero essere a distanza, eccetera, eccetera, di un metro, siamo mirati, un caffè ce li siamo andati. Vabbè, tutto ok, Natali. Via. Proprio la brava è fin. Cosa già? Ho detto, Curto, da bravo sta facendo. Sì, vedo, lo faceva bravo. Passando a delle incazzature. Sì, insomma. Sì, vabbè, dai. Già alleni, la butto. Da pochi mani di alleni. E cappa. Come sta arrivando già? Io c'ho quello adesso digitale, dai. Prova a vedere. Guarda un po', dai. Sì, arriva su per i 9,20, sì, dai. E cappa. Io come ti sta arrivando? Hola? Sì, fondo scala. Che va di Roger? Questo qui è il Cobra, bellissimo. Sì, cappa. Attenzione che chiama sul canale 10, la città di Sassari, nord Sardegna Italia, che ti supercorrializza, avanti. accoppiato da dove stai modulando. Il mio nominativo è doppio rum, avanti. C'è molta propagazione, non riesco a capire cosa dice, se arrivi in basso. Non so tu come mi stai ascoltando, mi dai un segnale, la zona di modulazione, ti ringrazio. Da Palermo. E beh Gianni. A casa Sica. Dove sta parlando? Latino. Palermo, ti ascolto un po' basso, perché c'è molta propagazione qua, ti ascolto un po' basso, però ti ascolto, dai, una strettona di mano, magari ci sentiamo alle prossimine, perché non ti ascolto bene. Che si alzi questa propagazione, lui. Sì, lo sento, ma non capisco cosa dice. Lui mi sente, ma io non riesco a sentirlo bene. K11 adesso. Cosa? K11, ascolti Sassari, avanti. Ti ascolto un po' basso, K11, da dove moduli? Negativo il passaggio K11, non ti ho ascoltato bene, arrivi un po' basso qua, un po' nel, diciamo un po' in mezzo a QRM, avanti, riprova, fa un passaggio. K11, proviamo un altro canale. Prego. Avanti, break. K11, come segnale arrivi abbastanza forte, la radio bassa, è la radio che dovresti regolare, magari dargli un po' di radio, dai, perché arrivi basso di radio, c'è il QRM che ti copre, io non so come ti stia arrivando, ma tu sei in mezzo al QRM con la radio. Attento K11, ti ascolti qua, traccia di cambio. Stoppa, ho copiato 9.30, è così. Io sono sempre di antenna, lo sentivo benissimo. Appagato. Luca, ripeni. Oh Giulio, ma mi avete... Giulio, Gianni, ma mi avete sentito o no? Ma non ti abbiamo sentito. Ah, ok, no, comunque stavo dicendo che sono tornato. Ah, ciao. Non ti abbiamo sentito, se no già lo sai che ti faccio entrare se ti sento. Sicuramente ti ho parlato quando stavo parlando io. No, tu non stavi parlando, se no l'avrei sentito. Vabbè, comunque non è fatto di DX o Alfa 1, Alfa 21. E si conferma. Dove? E adesso me lo ricordo il canale perché mi ha mandato Fabrizio gli schemi, perché io non c'è scritto i canali, ho tipo 27.075 e non mi ricordo che canale era, quindi. Praticamente forse ti ha fatto andare nel canale di chiamata che usiamo noi, capito? Quel canale di chiamata. Cavolo, va bene, ti lusso. Come ascolti con questa radio? Ma non mi ricordo mai il tuo nome, cavolo, ma te l'immagini? Vabbè, già. Diciamo, attenzione, aspettate, fate un po' di bianco. Avanti, attenzione, la città di Sassari, nord Sardegna, ti super cordializza, dipartimento 165, avanti. Attenzione, canale 10, dipartimento 165 nord Sardegna, città di Sassari chiama. Palermo, arrivi sempre a livello QRM, non lo so se ti ascolta il nostro Richellino che modula, dai, vediamo un pochettino, avanti Alfa 21. Ok, sì, un po' si sta sovramodulando e si copre comunque, c'è un po' di propagazione, ma mi sono fatto un giro intanto che parlavano gli altri perché non li sentivo e ho visto che c'è propagazione quasi in tutti i canali. Dammi un più rumo. È un casino, guarda, non so se li ascolti tu. C'è K12 che sta chiamando, K12. Sì, li ascolto, diamogli un altro canale, vediamo un po' se è più libero. Aspetta, vado a vedere un canale dove non c'è quel re. Gamma, gamma. Attenzione, binario 10, canale 10, se sentite l'isola sarda, gamma. Come sono i canali? Avanti, brico, brico, avanti. Attenzione, canale 10, se ascoltate l'isola sarda, gamba. Hola, hola, sud Spagna, hola, sud Spagna, vamos a ver se va escuchando la Italia, che va chiamando adelante. Hola, sud Spagna, vamos a ver se va escuchando la Italia, che va chiamando. Tutti lo stesso sono i canali, tutti con propagazione. È un casino già, oggi è un casino, si è aperta del tutto, prima niente, è tutto un casino, al 45 non si capisce una mazza, come cavolo fanno a modulare? Che è Fabio? Pinto, mio hermano del sud di Spagna, se scucci l'isola della Sardinia, adelante, ve l'ho comprendito. Aspetta un attimo, già c'è Fabio, Fabio. È un po' basso se fa, a 30 di che va, è un casino, è un casino modulare fa, capito, è troppo, come si dice, troppe modulazioni, arrivano 9.10 qua, 9.10, 9.20 anche. Guardate se voglio così. Sì, lo so, fa, arrivi quasi 9 da me, però c'è molto casino, già lo senti a Fabio Masse. Lo sente Fabio Massa già? Prova Fabio! Ma non lo sento, se sta parlando non lo sento. Sì, io lo sento. Dipende, dai, dipende dalla zona a zona, magari hai più diciamo QRM, dai, più modulazioni. Comunque io l'ho sentito e lo saluto, ciao Fabio Master se mi senti. Propagazione su tutti i canali. Purtroppo c'è niente. Mamma mia, come sto. Su tutti i canali così, Riccardo, ho fatto un giro io, su tutti i canali c'è propagazione. Oggi si è aperta, perché c'era brutto tempo, piove, una piovuta, oggi è una giornata un po' discreta e il boom della propagazione si è aperta. Il boom? Il boom, non il boom. Chi lo dice, lo sa? No. Quello che dice è Pantan. Riccardo. Passato. È stato il bomb. Bombe le pantane. Che poi se guardi come si chiama il catalogo. Ah sì, beh, la britella. Sì? Avanti Natali, stai chiamando a Riccardino. Ehi. Chiamalo va. Riccardino, ci sei? Sì che ci sono, Natalino, già ci sono, e che oggi ho propagazione come ha piovuto, come hai detto Luca, ed è un casino, tutti sovramodulazioni, entro qui alla Spagna, Sicilia, Nord Italia, gira lì. Ascolta, la banda laterale la sai usare? È positivo. Vai a 27 615, c'è il Lago Maggiore, ti fai anche la QSL, va, arrivano sparati. 27. Ho capito cosa hai detto, si stanno coprendo, se Luca o Gianni me lo ripete. L'ha detto di andare in la frequenza 27 615 in banda laterale USB. E lì c'è il Lago Maggiore, c'è una stazione speciale per il Covid-19, ti fai anche la QSL, va. Ah ok, quindi 27.615. Sì signore, poi ti ho stampato anche dei fogli di log, così ti impari anche a scrivere, perché ti devi impratichire col scrivere per fare il registro di stazione. Al limite li porto a Roberto, o se ce l'hai già, non lo so. No, non ce li ho, negativo. Comunque proviamo che in banda laterale 27.615. Sì, se la stazione monitor è lì, tu chiami e ti rispondono, non c'è problema. Staranno parlando a nastro. Ho capito, aspetta che provo. Ho speso una barca di soldi, dai, a dopo. Io non Alfa, una barca non Alfa. E gara. Dai, poi appena arrivo all'alta ti stacco i tappi, Claudio, e vediamo un po' per riverniciarli a nuovo. Capo. Allora, già te lo faccio io, Rialto, ho detto, tu dammi i tappi, la radio la conservi, io me la porto in officina, te la faccio nuova, nuova, ok? Capo, adesso ci vediamo, ora non ci sono problemi, Claudio, tranquillo, capo. Al limite mi faccio dare il mezzo da Marina. Mai un pomeriggio così, perché la mattina c'era lì la macchina, ma di stare lì un attimino, faccio un salto e ci vediamo, non c'è problema, capo. Sì, io vengo in mezzo, non ti preoccupare, c'ho anche la moto, io non ho problemi. Va bene, dai, ciao a tutti, ci sentiamo dopo per mangiare, ciao ciao. Ciao Claudio, a carica. Gianni. Allora, i miei collegamenti fatto, ma è un casino già, sapete che abbasso un po' da. Sono i vostri soldi, beh andava, meglio fa. Dimmi Natali. Miglio Milan appunto. Avanti il break per la Sardegna. Aspetta, già, se Natali dove sta parlando, non sei cazzi Kenny, cos'è Natali? È un bastardo quel doppio room. Dito veloce, cosa stavi dicendo Natali? Era ora. Era oro. Gianni, va, fai entrare il break. Ciao, ora stavo a mangiare, ciao ciao. Aspetta, cosa devi mangiare a pranzo? E i salsicciolli me devo fare, ragazzi. Non a giocare, se riesci a mangiare te ne sono qua. Oh, adesso mi sposto anch'io un attimo, dai. Riccardino, ci sei, non pranzi oggi tu. Cioè, Riccardino ci ha fatto qualche... Ma dove è tutto, Natali, c'è propaganda... Propagazione, c'è, della... quel baracchino occulto. Eia, c'è propagation, dove ho detto io. E poi c'è il Lago Maggiore, ci sono un paio di stazioni speciali per questo Covid-19 e ti mandano la QSL via email. Che sta fischiando avanti? Ma dove? A pulire il cotto. Nomi. Antonello è cotto. Dico c'è la Germania che vi sta chiamando in FM. Ecco risponde, ti devi dire cartoffe, che bel punto è Volkswagen, allora ti dicono maccheroni. 1, 2, 3, 4. Lo so. Attention. Deutschland, Guten Abend. Security, Achtung, ihr Ruf zu der Romeo Whisky. Achtung, Deutschland. Guten Abend. Fuggito se ne. Perché ti ha sentito parlando, storpiando il tedesco? No, che lo parlo bene, ma la sorte, non mi ricordo la storia. Con l'inglese mi incasino un po'. Se qui da lì tutto c'è di Deutsche. Achtung Germany, Italy from Sardinia. Achtung Germany, Italy from Sardinia. Hola, test, test. Aspetta un attimo. Oh, Achtung Deutschland, Guten Abend from Italian Station. 1, 2, 3, 4. Hallo, hallo, hallo, Coca-Cola, hola, hola. Coca-Cola. Sei qua, Guido di Coca-Cola vai ancora. Kartoffeln, Telefunken, Volkswagen. Mi sono già fatto ridere. A tutti faccio ridere, Lata. Sì. Hola, hola, hola. Hola la cipolla. Test, test. Kartoffeln, Kartoffeln. Warte, Kurve! 1, 2, 3, 4. E io andiamo in un canale normale. 1, 2, 3, 4. E vai in AM. Attenzione, canale 10, il dipartimento 165 nord della Sardegna fa chiamata, cambio. Mi, a proposito, a 555 c'è la Francia. No, che canale è? 27555 USB. Sono Natalino. Poi a dimmi Riccardì, fatta l'hai? Sì, sono entrato, c'era un bel po' di gente che stanno a parlare tra di loro, lo rilanciano, quindi li ho salutati. Comunque sì, lì c'era più calma, non era come qua che c'era un bel di propagazione e stavano tutti a cercare di entrare. Comunque cosa hai detto, su che canale è la Francia 27? Allora, sul canale di chiamata sarebbe 27555, è il canale di chiamata internazionale, tu prova a chiamare lì. Allora, il nostro nominativo è 165, poi aggiungi due o tre lettere a tuo piacimento per farsi il nominativo ed è proprio, sanno che sei qui in Sardegna quando fai 165, capito? Come devo farmi il nominativo? Allora devi mettere il prefisso 165, che è il prefisso della Sardegna, e poi ci metti Romeo, per esempio, è l'altra iniziale del tuo cognome. Fai così e c'hai il nominativo. Ok, ho fatto 165 Romeo India Yankee. Fai così, Romeo India Yankee, è bello come nominativo, dai. Prova 1 a 27555, che è il canale di chiamata internazionale, dai. Ok, provo anche lì. E devo usare questo nominativo? Certo, devi usare quel nominativo lì, dai che ti seguo. Ok, perché il problema è che sono entrato sul 27615 e non mi avete detto il nominativo, non lo sapevo e quindi ho dovuto usare il mio nominativo. Ok, tu usa sempre quello, che così sanno che sei dalla Sardegna. Ok, con questo adesso vado su 27555. Ok, già ti seguo anch'io, Davide. E la banda è sempre USB? Sì signore, falli in USB che c'è più calma, più tutto. Qua è un macello. Ok, adesso vado. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, avanti chi cerca Italia, avanti. Dipartimento 165 nord della Sardegna fa chiamata. Name Gianni. Roma, Roma. No, speak English, no speak English, parli French, French. Brindisi, Brindisi, correct. Cappa, qual è City, qual è tua City? Mia City, Sassari, Sardegna, Italia. Dipartimento 165. Ora attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna, la città è Sassari, fa chiamata. Se chiudi ex, dipartimento 165, nord Sardegna Italia fa chiamata, cambio. Ora dipartimento 165, nord Sardegna Italia fa chiamata, cambio. Hola, Riccardo, ci sei? Oh, ci siete ancora? Io ci sono. Natalino, mica mi sono trovato un canale in cui ci sono i francesi a bomba. Quello va bene a doppio tu che sa parlare bene francese. Mi aspetta che te lo dico, che ce li ho tra i canali salvati. Chiama lì allora, il francese lo sai. Su tu di France à l'école. Oui, monsieur. Ça va bien. Oh, mica non sei una M. Hai ragione, ero un USB. Ti volevo dire, ho trovato qualcuno sul 27.465. Ah, K. Quello è il canale che usano i camionisti, mi sai. Ah, boh, io non lo so, i suoi canali, perché solo da poco questo Kenwood mi devo stampare praticamente i canali, tipo adesso 27.075 corrisponde al canale 10, me li devo tutti salvare. Infatti, il canale 12 è 1, cioè è 27.555, canale 12 corrisponde, della banda di su. Ho capito, sì, dopo Fabrizio che mi manda lo schema, se l'aveva trovato me lo doveva solo mandare e poi me lo stampavo. Infatti, sì, adesso me lo manda, c'è qui in vibrazione. Comunque, se ritorno subito me lo vado a stampare. Cappa, va bene, dai. Io me ne passo in QRT adesso e ci sentiamo più tardi. Che vado a farmi un riposino, Riccardo. Ciao Natalino, ciao a tutti gli ascoltoni. Ci sentiamo più tardi, anch'io adesso vado a mangiare dopo che ho stampato questo manuale. Ciao e a più tardi.